Perché ti amo e sta nascendo mezzo sentimento, dolce aria da incosciente. Fa parte del tuo gioco assurdo girare intorno a te lo sguardo, come sei pulita, si risveglia dentro me il poeta. Per un attimo di eternità, perché ti amo, io non lo so, ma stai sicura che non dormirò e tu sorriderai pensando che con te nessuno mai ha fatto come me. Volava in aria la mia giacca appena chiusa la tua porta, e tu m'hai visto mentre uscivi a salutarmi un'altra volta. Perché ti amo, il mondo ormai scompare piano in fondo agli occhi tuoi. L'estate sembra sempre azzurra, eppure ci sono luci ed ombre. Come puoi lasciarmi, oppure pensi come puoi tenermi? Dolce attimo di eternità, perché ti amo, come ti amo, ma stai sicura che non dormirò. Volava in aria la mia giacca appena chiusa la tua porta, dicevi tu sei matto ma ti amo, il resto cosa importa. E stai sicura che non dormirò, scompare piano in fondo agli occhi.